padre è un inferno. Ho adorato fino a quasi a morirne. Il dì che venne alla luce. Ignaro tu se mai vista la tua cura in quelle tauro pelati della tua infanzia. Per pietà,